9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno, buon mercoledì 19 maggio da Oscar Giannino. Subito l'argomento di cui ci occuperemo con ospiti e con le vostre telefonate tra pochi minuti. A Napoli, oltre 112.000 cittadini italiani, di ambo i sessi, giovani, meno giovani, avanti con gli anni, in fila sotto il sole per un concorso pubblico. Per essere assunti al Comune di Napoli, 534 posti, 112.000 persone in fila. Che cosa ci dicono quei 112.000 e il ritorno al porto fisso della paura, del timore, del senso di insicurezza che tornano a dominare nel nostro paese dopo un anno e mezzo di crisi? Non per giudicare loro, perché amano il posto fisso, ma per capire meglio quanto la paura possa fare a tutti passi indietro di fronte a sempre meno reddito disponibile. A tra poco, linea Giornale Radio. 9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 19 di maggio dal gatto Oscar, che è rimasto molto colpito dalla lettura di una notizia che ha avuto eco soprattutto sui giornali locali, sul giornale di Napoli, perché è una notizia che riguarda appunto Napoli. I giornali nazionali ne hanno secondo me un po' sottovalutato la portata. Di che cosa si tratta? Si tratta di un grande concorso lanciato dall'amministrazione comunale per la copertura di 534 posti, nuovi assunti quindi al comune di Napoli, e si sono presentate oltre 112.000 persone. Sentiamo come il TG1 ha illustrato la vicenda, la notizia, dando voce ai 112.000 in fila. Alle 6:30 del mattino il piazzale inizia già a riempirsi, è in fermento tutta la zona intorno alla mostra d'oltremare. I test dovevano iniziare alle 8, ma i numeri biblici rallentano le operazioni. Primo giorno del maxi concorso indetto dal Comune di Napoli. Si inizia dai ragionieri, 60 posti, oltre 10.000 iscritti. Se ne presenta qualcuno in meno tra la folla. Storie dell'Italia che cerca lavoro. Arrivano un po' da tutte le regioni, anche se la Campania domina. Sono disoccupato. Da quanto tempo? Da 6 mesi, cui uno tende un'altra carta a quest'età. È il primo concorso? No, dopo tanti. Quanti ne ha fatti? 5. Quanti anni ha? 25. Sfida tra generazioni, ma con un unico sogno. Quello di avere un lavoro fisso. Per trovare un lavoro stabile. A mezzogiorno, via alle prove, 70 quesiti in 40 minuti. Com'erano le domande? Complicate. Ce n'era qualcuna curiosa? Sì. Tipo? Il DNA degli animali, poi non l'ho capito bene. Io non lo consiglio a nessuno di fare questa cosa, ma dovrei fare lavare i vigili, ma cioè... Il posto da vigile è il più ambito. In totale il comune assumerà 534 persone in vari settori, quasi 113.000 gli aspiranti. Se le prove si svolgessero in un unico giorno, servirebbe lo stadio Maracanà di Rio. Ora, 112.000 persone in fila per 534 posti vogliono dire, dal mio punto di vista, molte diverse cose. Primo, ieri sera, puntata di Porta a Porta, sondaggio del professor Mannheimer, domanda agli italiani che sono di nuovo molto preoccupati, hanno un picco di preoccupazione che secondo me è giustificato di fronte a questo nuovo capitolo della crisi internazionale apertosi in questi ultimi mesi con la crisi dei debiti sovrani, il caso Grecia, che poi alla fine tutti hanno giustamente capito non riguardare solo la Grecia, ma investire tutta la tenuta dei debiti dei paesi avanzati, che sono in via di forte rafforzamento. Nella media i paesi dell'euroarea avranno un debito pubblico pari all'88% del PIL l'anno prossimo, e di fronte a questo gli italiani tornano a preoccuparsi, ripeto giustamente, perché dopo un anno e mezzo da Lehman Brothers, che ha fatto prendere un grande picco al negativo al commercio mondiale, e dopo alcuni mesi in cui parlavamo di exit strategy, sembrava che le cose si stessero rimettendo a posto, ripartivano gli ordinativi, si apre una nuova grande fase di instabilità che sarà duratura secondo me, e gli italiani di nuovo iniziano ad avere giustamente preoccupazione per sé, per il proprio lavoro, per il proprio reddito disponibile, mentre centinaia di migliaia sono le vittime intanto della crisi, avendo perso posto di lavoro, centinaia di migliaia sono in cassa integrazione. Domanda di Mannheimer ieri sera. Cari italiani, di fronte a questa vostra preoccupazione, che tipo di mercato del lavoro vorreste? Vorreste un mercato del lavoro più flessibile, quindi con meno vincoli, ma con più possibilità di trovare più posti di lavoro, contrattando la retribuzione nel posto di lavoro che di volta in volta sareste più liberi voi di cercare e le imprese di offrirvi? Oppure, in alternativa, preferite un mercato del lavoro dalle regole più rigide, quindi con meno libertà di licenziamento, insomma il posto fisso, ma anche con retribuzioni più basse? Ebbene, l'80% delle risposte a questo sondaggio di Mannheimer indica che gli italiani tornano a preferire all'80%, ripeto, un mercato del lavoro più rigido, con meno libertà di licenziamento e con retribuzioni più basse, se questo è il prezzo da pagare in cambio di più sicurezza del lavoro. Allora, che cosa esprime questo? La paura da una parte? Sì, certo. Il ritorno al posto fisso, che sembrava un pochino il simbolo di quell'Italietta nel boom, che non aveva mai troppo amato rischiare, che non ha mai introiettato l'idea di una grande mobilità del posto di lavoro, geografica, di una formazione del capitale umano ricorrente, e che preferisce stare vicino a papà e mamma il più possibile, però con la garanzia di non essere licenziati e, se possibile, anche piuttosto con più tempo libero invece che guadagnare meno. Beh sì, vuol dire questo e tante altre cose, però, perché è facile giudicare, e forse la cosa migliore è interrogarsi rispetto ai numeri di questo concorso napoletano. Tra l'altro il ministro Brunetta ha elogiato molto questo concorso, che è gestito dal Formez, dicendo: finalmente un concorso in cui non andranno più avanti i raccomandati, ma invece un concorso che consentirà di giudicare per merito. Domanda che faccio io a nome vostro, pregandovi di chiamare l'800 24 00 24, soprattutto alle regioni del sud oltre che dal nord, per dire se anche voi sentite più voglia di posto fisso nella paura che vi ha preso, o perché comunque c'è una disoccupazione stabile molto forte in molte regioni del sud, e così a cui si aggiungono i colpi della crisi. Ma in buona sostanza, si possono davvero giudicare secondo merito poi 112.000 candidati per 500 posti? E come si fanno delle graduatorie al miliardesimo di punto per dividere il 112.000esimo dal 112.500 101 e così via, prendendo i 500 su 112.500 che sono i più bravi? Io non riesco molto a capirlo, a dire la verità. Comunque, anche per questo abbiamo deciso di invitare degli ospiti che ci consentano sì di parlare del concorso di Napoli, ma di allargare la visuale sulla realtà dell'occupazione e del posto fisso, dell'intermediazione pubblica, che resta dominante per il sostegno dei redditi nel nostro sud, che non ha colmato i gap, e quindi non per giudicare ma per aiutarci a capire. Allora, gli ospiti: abbiamo innanzitutto con noi Secondo Amalfitano, che è presidente del Formez, che, come vi ho detto, ha avuto il compito di organizzare questa prova. Buongiorno presidente Amalfitano. Buongiorno a lei. Poi abbiamo Luigi Scotti, che è assessore alla legalità del Comune di Napoli. Ci capita spesso di sentirlo, perché è un incarico da far tremare le vene e i polsi, quindi sostegno e solidarietà nel ringraziare per essere con noi. Buongiorno Scotti. Buongiorno, buongiorno a tutti. E Domenico De Masi, lo conoscono molto bene i nostri ascoltatori, che insegna sociologia del lavoro alla Sapienza, presidente della Fondazione Ravello, è un animatore di come si possa provare e anche riuscire a fare un'idea di cultura, parlando all'impresa e a propria volta in forma imprenditoriale, animando un'offerta turistica di qualità con un calendario esteso a tutto l'anno, con cultura, arte, musica. Buongiorno De Masi. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, io partirei innanzitutto da lei, De Masi. I numeri di questo concorso, la realtà di questo concorso rispetto a Napoli, che cosa ci dicono? Beh, ci dicono varie cose. La prima cosa è che non è possibile giudicare secondo merito 500 persone su oltre 100.000. Faccio selezioni da oltre 40 anni, non esistono le tecniche per poterlo fare. Quindi è una liturgia che forse occorre in qualche modo, ma che scientificamente non ha nessuna base statistica. La seconda cosa che ci dice è che questo è un fatto ricorrente. Ci sono lettere, ci sono resoconti, ci sono verbali fin dalla fine dell'Ottocento di situazioni analoghe. Agli inizi del Novecento si laureavano circa 6.000 persone all'anno, ora se ne laureano 160.000, e di quei 6.000 laureati 3.000 dovevano emigrare perché non c'era posto in Italia, e tutti i resoconti dei grandi concorsi di allora ci dicono che 20.000 candidati per 30 posti. Quindi questa situazione è endemica. L'incapacità di utilizzare lavoratori intellettuali è permanente in Italia. L'altra cosa che ci dicono queste cifre è che siamo in presenza di un cambiamento epocale del mercato del lavoro. Cioè, si va verso un mercato del lavoro che, quando era industriale, aveva bisogno di impiegare migliaia e migliaia di persone per fare determinati lavori, per svolgere determinate mansioni, e che ora, a causa del progresso tecnologico e a causa della globalizzazione, riesce a produrre sempre di più con sempre meno lavoro umano. Si va creando una situazione molto più complessa e nuova, in cui a un nucleo centrale di persone che hanno il grande privilegio di consumare, però anche di lavorare, si contrappone una massa crescente di persone che hanno il privilegio di consumare ma non hanno il diritto di produrre. E questo naturalmente modifica completamente il quadro. Per esempio, quando si dice c'è disoccupazione perché c'è crisi, ho sentito ieri Prodi a 8,5, si dice una cosa non vera. Secondo me, se finisce la crisi, aumenta la disoccupazione, perché le aziende oggi, invece di comprare uomini, preferiscono comprare macchine o esternalizzare. E in definitiva, io su quest'ultima osservazione, oltre che sulla prima, quella dell'impossibilità di giudicare secondo veri criteri di merito, io condivido quello che ha detto Tommasi, ma condivido anche la sua ultima osservazione. Il fatto che in Italia, nella crisi, noi siamo rimasti sotto la media dei disoccupati, cioè della creazione di disoccupazione aggiuntiva in un anno e mezzo di crisi dopo Lehman, testimonia il fatto che nella media le nostre piccole imprese, che sono molto maggiori in proporzioni sul totale dell'impresa italiana e degli altri paesi avanzati, hanno preferito rinviare il più possibile, per scarsità di risorse finanziarie da investire, per incertezza delle mutazioni della domanda alle quali attrezzarsi per dare risposta, rinviare il più possibile la razionalizzazione della propria pianta organica, e per questo hanno ritenuto di più rispetto ad altri paesi concorrenti i propri occupati, perché per la piccola impresa italiana investire sui propri dipendenti, sulla loro qualità, sulla loro capacità di quasi gestire al meglio la produzione è naturalmente una parte molto considerevole dell'investimento. Quindi prima di rinunciare a quegli occupati e veramente si arriva fino all'impossibile. Il problema è che quando poi la domanda e gli obiettivi ripartono, allora li scatta la razionalizzazione e la ristrutturazione. Mi sembra che su questo De Masi abbia assolutamente ragione. Resta il fatto che noi stiamo parlando di regioni, Campania, Napoli, eccetera, dove la disoccupazione è rimasta sempre elevatissima, dove quella giovanile e quella intellettuale sono le piaghe. La partecipazione della donna al mercato del lavoro resta di molti punti inferiore a quella di un paese che oggi nel segmento femminile è 17 punti in termini di occupazione sotto la Germania, 17 punti. Allora, assessore Scotti, per chi ha la responsabilità di una delega come quella della legalità, certo, un maxi concorso come questo è una sfida o è una svolta? È una sfida e una svolta, nel senso che io condivido l'analisi sociologica che è stata fatta, ma intanto ci imbattiamo in questa necessità. Per il turnover, per il pensionamento di alcuni nostri dipendenti, abbiamo in parte investito nella tecnologia, in parte però abbiamo bisogno anche di personale. E quindi il bando di 570 posti, che poi è circa la metà di quello che saranno i posti vuoti per il turnover. E ci rendiamo conto che in un territorio come quello campano, l'affluenza, ci siamo sempre resi conto che l'affluenza sarebbe stata massiccia, e d'altra parte l'unico modo per garantire la legalità, ossia per garantire trasparenza senza raccomandazioni, senza intervento in nessun modo possibile, era quello di affidarci ad un ente terzo, il Formez, che ha stabilito sostanzialmente le regole fondamentali di accesso e di partecipazione, i quesiti, i quiz e via dicendo. Certo, il metodo non può essere il metodo ottimale, forse neppure un metodo di approssimazione ad una necessità di valutazione corretta, tenendo conto di una platea di aspiranti di gran lunga inferiore, ma la platea di aspiranti è quella, ce l'aspettavamo. D'altronde, anche nel concorso che quasi in contemporanea si sta svolgendo a Roma per un numero doppio di posti, più o meno l'affluenza è la stessa e anche loro si trovano nelle stesse difficoltà. Noi abbiamo preferito realizzare questa svolta, sia un ente terzo, sia il Formez. E così qualunque preoccupazione, qualunque sospetto e anche qualunque malevolenza nei confronti dell'amministrazione comunale, secondo cui e chissà che cosa si combina e chissà quanti raccomandati, viene smentita sin dall'inizio per realizzare quella equità di trattamento. E poi il sistema dà i risultati che dà, voglio dire, nel senso cioè che non è possibile una valutazione con una platea così vasta, una valutazione che sia corretta al 100% e che tenga conto anche delle attitudini personali, diciamo nel modo più ottimale possibile. Sì. Però in termini di legalità formale, se si vuole, era l'unico sistema realizzabile in un contesto così difficile e anche sotto certi aspetti così chiacchierato. Assessore, dagli SMS che arrivano a raffica, due domande immediate. La prima è di coloro che chiedono, devo essere sincero, soprattutto dal nord, molti ascoltatori dal nord, ma veramente volete dirci che a Napoli avevate davvero bisogno di 534 nuovi assunti? Seconda domanda. La stessa amministrazione comunale ha immediatamente girato la segnalazione alla Procura di Napoli, che ha aperto un fascicolo per un eventuale tariffario di compravendita dei diritti al posto, chiamiamolo così, per questo concorso. Domanda: ma se siete voi che lo organizzate, com'è? Andate dal magistrato non appena tenete le prove? Dovreste essere voi i veri garanti che non avviene così. Rispondo immediatamente alla prima domanda. Abbiamo bisogno, ripeto, abbiamo messo a concorso soltanto meno della metà dei posti che si rendevano disponibili e abbiamo mirato soprattutto all'aspetto, diciamo, tecnologico. Infatti il numero di vigili urbani e il numero degli impiegati ordinari è inferiore rispetto al numero dei tecnici che è stato messo a concorso, proprio perché ne abbiamo bisogno e perché vogliamo migliorare il quoziente di professionalità del, diciamo, dell'amministrazione, dei dipendenti dell'amministrazione. Uno, due. E quel rapporto alla Procura della Repubblica si riferisce a un episodio molto particolare. Era girata una specie di dichiarazione da parte di alcuni soggetti secondo cui già cominciavano le raccomandazioni e comunque alcuni corsi mirati a pagamento, in base ai quali però si sarebbe ottenuto un vantaggio, eccetera, eccetera. Noi abbiamo preso questo esposto. Il sindaco lo ha mandato alla Procura della Repubblica dicendo: il concorso si attuerà in questo modo e comunque accerti la Procura della Repubblica se, nonostante tutte le nostre possibili garanzie, si realizzerà qualcosa di strano. Ecco, è stata una cautela che garantisce ulteriormente rispetto alle nostre considerazioni e alle nostre, diciamo, alle modalità attuative del concorso stesso. Io ho l'obbligo di dirle che mentre dava la risposta alla prima domanda mi sono entrati una nuova raffica di messaggi di ascoltatori. Questo lo dico non per censura, non sono certo loro che danno il voto, però io ho l'obbligo di dirle, assessore, che la maggioranza dei nostri ascoltatori, che quelli, non è un sondaggio, ma quelli che mettono la mano al telefonino, quindi quelli che hanno voglia di commentare in diretta, rimangono dell'idea che forse bisogna fare senza nuovi assunti al Comune di Napoli. Questo purtroppo è l'impatto che dopo anni e anni di vicende amministrative tra nord e sud questo problema resta. C'è chi mi segnala che a Verona assumono solo 6 nuove, naturalmente il Comune di Verona è appena il caso di dire che non ha le dimensioni, gli amministrati, le competenze, la superficie, eccetera eccetera, il Comune di Napoli, però questo problema resta. Ora andiamo in pubblicità e poi andiamo sui problemi tecnici con Amalfitano di che cosa vuol dire organizzare una specie di prova biblica di queste proporzioni. Pubblicità. 9 in punto, la versione di Oscar. 9.33, 20 secondi, eccoci tornati in studio. Ci stiamo occupando del mega concorso a Napoli, uno dei tanti mega concorsi, ma che però mi hanno colpito per le cifre: 112.000 persone per 534 posti. Molte domande di chi è a casa, ma perché Napoli ha davvero bisogno di 534 nuovi assunti? Come si fa a giudicare in merito in graduatorie così ristrette rispetto a tanti candidati? Un SMS di un ascoltatore ci dice: a Torino circa 20 anni fa, concorso comunale per 500 posti, eravamo 138.000 anche allora, le prove si svolsero al Parco Ruffini in più giorni, io arrivai 505esimo, quindi per 5 posti prima di lui non assunto, ed è una prova provata della domanda legittima, ma insomma siamo proprio sicuri che per 5 posti. Però oltre a questo sentiamo un secondo le telefonate di chi è a casa. Molti mi criticano anche perché io dico che il ritorno al posto fisso come espressione della paura, del timore di non accettare la sfida è perché me lo posso permettere, o comunque per fasce dei lavoratori che se lo possono permettere, non lo so. Su questo io ambirei stare in un paese in cui non è questo il metro. l'ascensore sociale con la mobilità nei paesi dove è più accentuata della nostra, dove il mercato del lavoro è meno rigido, da meno tutele, però la velocità di aumento di decennio in decennio del proprio reddito disponibile individua ed esprime una maggiore capacità di promuovere dal basso e di crescere, invece che come nel nostro paese essere nello stesso decile in cui ci si è nati, lì si muore a seconda di quante cose, case e soldi ti ha dato papà. Ecco, quella roba lì è una scommessa che fanno di solito negli altri paesi esattamente chi ha meno, inferiore titolo di studi, meno possibilità di avere avviamenti patrimoniali familiari. Ed è quel tipo di lavoratore che si mette a cercare disperatamente i posti di lavoro, a lavorare di più perché vuole crescere di più. Io lo so che espressa così sembra darwinismo, però è la realtà che ho conosciuto io, è la stessa cosa che ho fatto io andandomene molto presto. Io ci credo, che volete da me? Sono partito avendo niente in mano, io ci credo, se ce l'ho fatta io che sono un cretino e vengo da un quartiere operaio, ce la può fare chiunque, questa è la mia idea. Vi sembra il sogno americano? No, no, io stavo a Mirafiori di fronte alla Fiat, ero in una famiglia molto insomma, limitata e non ho visto l'America intorno a me. Mi è andata bene, ma perché non può andare bene anche voi se ci credete? Certo, capisco, le tutele ci servono, capisco tutto. Ed è molto difficile accettare l'idea di prendere il valigino e andarsene in posti maleodoranti a dormire senza sapere. Però io dico che la realtà di grandi paesi ci insegna che è così che si costruisce, molto più che il posto fisso. Questa è la mia opinione personale, non vale più della vostra però. Sentiamo, Simone dalla provincia di Napoli, come la pensa? Buongiorno dottor Giannino, senta, io mi meraviglio molto della sua meraviglia per le 100.000 persone, ma sa che io ho 65 anni, 40 anni fa a Napoli ho fatto decine di quei concorsi, poi sai com'è finita? Ho trovato una raccomandazione, ho trovato un bel posto di lavoro, adesso ho una figlia di 26 anni che non c'è il lavoro, una nipote con due lauree che non c'è il lavoro. Poi conosco due nipoti di una persona politica che hanno il posto di lavoro. Non è un problema di posto fisso, ma di posto di lavoro, perché sì, quell'8,5% di disoccupati in Italia non è un numero reale, specialmente qui al sud, è l'85%. Solo questo le voglio dire. La ringrazio. Questa, Simone, è la voce del realismo, per così dire. Di fronte a una disoccupazione, una questione di occupazione giovanile così irrisolta, è meglio la raccomandazione piuttosto che un posto, se senza posto, senza raccomandazione. Amaro, anche se è vero. Laura da Udine, che pensa? Buongiorno, che lei ha proprio detto la verità. Signor Giannino, sono Laura, sì. Ascolti, io ho due figli sui 50 anni, laureata in lingue moderne. Una ha scelto l'insegnamento e l'altro aveva scelto l'industria, addetta commerciale e lingue estere. La prima era precaria per entrare in ruolo, ha fatto un concorso, l'ha vinto e naturalmente con i ragazzi di sostegno. La seconda, un anno fa, è andata in cassa integrazione, una grande disperazione. È stata riassunta dopo 6 mesi, perché una collega aspetta un bambino, però è diventata precaria lei. Allora io mi chiedo a questo punto, per aver tutta questa sofferenza, questo apatema d'animo per mie figlie, era meglio che anche la seconda fosse entrata nel mondo naturalmente statale. Questo è quello che io penso. Mi dispiace, però questa è quello che io... L'esperienza che ha avuto in famiglia, certo, e io la ringrazio di questa testimonianza perché ci aiuta a capire poi perché gli italiani toccano con mano la realtà di diversi mercati del lavoro, diversi livelli di tutela, diverse possibilità di inserimento. Soprattutto ancora un ascoltatore, poi torniamo ai nostri ospiti. Si è aggiunto il direttore del Mattino, Virman Cusenza, che saluto, poi gli darò immediatamente la parola. Carlo, dalla provincia di Milano, che ne pensa, Carlo? Sì, ma anch'io, come tanti altri del nord, mi chiedo perché 500 tutti insieme. Tra l'altro in Regione Lombardia ci sono 250 dirigenti per circa meno di 3.000 dipendenti, in altre regioni del sud, non dico quale, ci sono solo come dirigenti pubblici più di 3.000 persone, quindi non si capisce molto bene quale sia il senso di questa cosa. Però al netto di questo io volevo fare un'osservazione, che in effetti la natura della crisi di oggi ci fa pensare che il rischio maggiore lo corrono proprio i dipendenti pubblici, perché se lo Stato va in default, i primi a non prendere i soldi sono i dipendenti pubblici. Quei 112.000 sono sicuri di quello che stanno facendo? Grazie Carlo. Allora sentiamo il direttore del Mattino, Virman Cosenza, che ha pochi minuti e poi ci lascia. Un osservatorio certo particolare col direttore di un quotidiano che ha la storia del giornale di Napoli, quando Napoli ha la storia che ha, non può permettersi di prendere, diciamo così, sotto gamba fenomeni come quelli della disoccupazione, della difficoltà di inserimento giovanile, della richiesta di tutela, contemporaneamente anche la possibilità per un comune che ha la storia, i disastri, i guai di quello del comune di Napoli, di tentare di fare assunzioni nella propria pianta organica secondo criteri, diciamo così, di legalità, come ci ha spiegato l'assessore Scotti. Da questo punto di vista, questa vicenda che cosa dice al direttore del quotidiano di Napoli? Ma buongiorno, innanzitutto dice molto su Napoli, ma anche sul sud, perché dei 112.000 iscritti a questo mega concorso, passerà la storia per tante ragioni, poi vedremo anche quali, sicuramente una buona parte non è napoletana, non è campana, ma appunto viene dal sud. Noi abbiamo raccolto anche molte testimonianze di giovani disperati che vengono dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Sicilia, insomma, come dire, è un maxi concorso che fotografa bene la condizione giovanile nel mezzogiorno d'Italia, nel momento in cui le percentuali, come del resto ricordavate prima, sono ben oltre naturalmente quell'8% nazionale di disoccupazione, perché come abbiamo visto addirittura soltanto nei giorni scorsi le statistiche dicono che soltanto il 20% nel migliore dei casi tra i giovani è occupato. Ma questo concorso, diciamo, ha tutti gli aspetti mostrum della situazione, perché da una parte ha questo numero elevatissimo che ovviamente lo snatura e soprattutto fa capire che è una zattera della Medusa, una barca di disperati che tenta l'ultimo assalto allo strapuntino per salvarsi dalla tempesta. Questo un po' se dovessimo affrescarlo in un quadro. Dall'altro però purtroppo è anche, se vogliamo, la radiografia di tutti i mali tipici del nostro mezzogiorno, perché accanto al concorso in senso stretto, legale, con tutte le procedure che sappiamo, si è innestata la solita speculazione e il solito malaffare. Di che sto parlando? Della denuncia, delle tante denunce che sono arrivate in queste settimane preparatorie appunto al concorso, che ci raccontano di come con cifre dai 20.000 ai 30.000 euro si sia pagato per ottenere la solita raccomandazione, il solito posto garantito. Naturalmente in questa giungla di malaffare ci sono, come dire, offerte di varia natura. C'è il millantatore che su internet ha pubblicato come dire, l'esca per il pollo di turno, e c'è naturalmente anche chi invece evidentemente ha delle entrature di un certo genere e ritiene di poterle spendere per garantire il posto di lavoro. Fatto sta che anche con le mie orecchie ho sentito persone appunto alle quali sono stati chiesti 30.000 euro per ottenere questo posto garantito. Non so come facciano, perché devo dire che il test messo appunto al Formez e appunto dal suo presidente, che secondo Malfitano, un ex sindaco di Ravello, che è una persona si è dimostrata molto valida e anche molto efficiente, onestamente credo che sia congegnato bene, quindi non so in quali interstizi si possa eventualmente infilare manipolatore di turno. E allora approfittiamo nel volo, perché abbiamo Malfitano che abbiamo tenuto lì senza far operare, io mi scuso con lui, è un pochino appunto la concitazione delle nostre telefonate degli ascoltatori. Malfitano, ho sentito, qua ci sono più aspetti, la legalità, come potete voi che siete gli organizzatori rispondere a chi si preoccupa, dice, ma come, c'è già il tariffario delle raccomandazioni, come si può scientificamente fare una graduatoria su così tanti, insomma vi è stata affidata una cosa impossibile, pressoché impossibile, l'organizzazione, la scientificità, la serietà di un processo di selezione per 112.000 persone, la risposta a lei e ci convinca. Ecco. Grazie innanzitutto e buongiorno, ribongiorno. Indubbiamente la carne a cuocere è tanta, io spero di avere elementi così intriganti da strapparle una seconda puntata, perché da Napoli sta partendo un discorso rivoluzionario per l'accesso alla pubblica amministrazione. il ministro Brunetta ha realizzato che interventi normativi in corso d'opera, vale a dire per la pubblica amministrazione esistente, sono importanti, sono utili, sono indispensabili, ma non risolvono il problema. Il problema si risolve con due interventi, uno all'origine, quindi la fase di accesso deve essere blindata e sterilizzata da interferenze esterne, e l'altro elemento di intervento deve essere la formazione continua della pubblica amministrazione. Sono due cose che in Italia oggi hanno sacche di buio profondissime che compromettono tutto. Detto questo, noi come Formez Italia, e ci tengo a precisare che siamo strumento operativo di una commissione interministeriale composta da interni, pubblica amministrazione ed economia. Quindi la gestione vera è di questa commissione interministeriale. Noi siamo strumento operativo tecnico. Detto questo, stiamo mettendo in campo una serie di azioni scientifiche rigorose. Sul concorso di Napoli noi abbiamo avviato una ricerca con l'Università di Napoli, Federico II, e con il Comune di Napoli per una lettura sociale, economica e culturale di tutto il concorso, dall'inizio alla fine. Ci saranno ricercatori che si riverseranno su questi, spulceranno i numeri uno a uno. Per esempio, i primi numeri che siamo in grado di fornire, ma li abbiamo forniti già in conferenza stampa di presentazione delle procedure, è che l'80% delle domande provengono dalla città di Napoli. Questo è un dato che mi ha molto intrigato, perché le domande sono tante. È il rifiuto di lavorare a Napoli? È perché Napoli è un serbatoio straordinario di risorse? L'approfondimento è necessario. Aspetti, la interrompo per il minuto di informazione sulla circolazione stradale e poi torniamo. 9 in punto, la versione di Oscar. 9.47 e 54 secondi, stiamo parlando del mega concorso, 112.000 aspiranti a Napoli per 534 posti, molti messaggi, ringrazio Dino Bortolotto, il presidente di Asso Provider, per esempio figlio di un muratore in Belgio, poi laureato in ingegneria, fondatore di un'impresa, che mi dice, attento, io sono diventato un imprenditore, la penso come lei, però in Italia in realtà l'ascensore sociale non funziona, anche perché quei valori poi della concorrenza sono violati anche da chi sta nel privato, e quindi prima di illudere sul fatto che sia facile poi fare davvero impresa in concorrenza, bisogna sapere che spesso sono i grandi privati quelli che lo proibiscono e lo vietano con i loro comportamenti. Secondo me ha ragione Dino Bortolotto a dirlo, e questa è della radio di Confindustria, ma io sono il primo a dargli ragione. Bisogna estendere la concorrenza, altrimenti il merito non funziona davvero, e quindi anche però la concorrenza per il posto di lavoro. Tanti altri mi dicono, sì, tu critichi chi cerca il posto fisso, però prova ad andare in banca e se non hai una garanzia reale e non ce la mette il tuo papà o la tua mamma, e se non c'è il posto fisso, vedi un po' che ti dà un mutuo. Ha ragione, infatti il sistema del credito italiano è organizzato su garanzie reali, ci hanno evitato di dover salvare le banche, ma dall'altra parte però è vero che il nostro sistema bancario non è abile nel fare uno sconto del tempo, della formazione del capitale umano, che vede lontano nelle possibilità. Se qualcuno vuole rischiare nella propria carriera, nella propria intraprendere posti che solo più avanti nel tempo avranno un ritorno, un reddito maggiore, e le banche italiane questo ragionamento non lo sanno fare, quindi avete ragione a farmelo notare. Sentiamo ancora alcuni ascoltatori, cominciamo da Raffaella. Raffaella da Roma, prego, come la pensa? Salve, buongiorno. Senta, nulla, io volevo fare un commento appunto sulla capacità di discriminare effettivamente il merito tramite sistemi di test su 112.000 persone. Io personalmente ho partecipato a concorsi analoghi per dei posti in teoria da tecnici per un'amministrazione regionale. Ovviamente non si è assolutamente in grado di discriminare il merito con un test attitudinale in cui, per esempio nel mio caso, 4 domande tecniche c'erano su un totale di 50 domande di cultura generale, di italiano e di logica. Oltretutto non è assolutamente vero che questo garantisca una migliore efficienza nei confronti dei soliti raccomandati, perché è risaputo assolutamente, c'è qualcuno che in tasca ha già le risposte del test, e mi sembra anche evidente da questo test che si svolgerà a Napoli, 40 minuti, 70 domande, voglio dire meno di un minuto per rispondere alle domande. Grazie Raffaella, devo dire che ridaremo la parola ad Amalfitano, anche perché molti dei nostri ascoltatori dicono, se la novità è questa non l'abbiamo capito, convincici. Daniele da Bologna, come la pensa? Prego, rapido. Buongiorno signore, rapidissimo. Io penso che questo concorso rappresenti l'ennesimo fallimento totale della mentalità dei giovani e dei meno giovani italiani, che in realtà non ambiscono a lavorare, ma ambiscono ad avere a un posto pubblico nel quale avere immediatamente la malattia e i permessi, non fare assolutamente nulla, perché non dimentichiamoci che l'Italia, nonostante la crisi, è un paese di grande immigrazione extracomunitaria e gli immigrati lavorano. La maggior parte lavorano, fanno i cosiddetti lavori che gli italiani non vogliono più fare, che tutti questi disoccupati non si sognerebbero mai assolutamente di fare, perché in campagna non ci vanno, perché faticano, gli allevamenti di bestiame non ci vanno perché faticano, nonostante sarebbero retribuiti anche bene, nei macelli non ci vanno perché faticano, in fonderia non ci vanno perché faticano, vogliono fare invece i dipendenti pubblici, che significa non fare assolutamente niente, perché il dipendente pubblico... Grazie Daniele, io ti interrompo e ti do, per dire, un premio virtuale, perché ti sei esposto a una salva di fischi e di insulti da parte dei nostri ascoltatori che pensano che ci sia dell'insano nordismo e del pregiudizio nelle tue parole. Però è bene sapere che in Italia questo punto di vista è molto esteso e diffuso. Luigi, dalla provincia di Milano, rapido, come la pensi? Sì, buongiorno Giannino, io volevo dirle semplicemente questo: io ho fatto una scelta di precarietà di vita, perché prima ancora di laurearmi mi sono messo a lavorare per conto mio, non sono mai stato dipendente di nessuno, non sono diventato ricco, i miei mi hanno contrastato in tutti i modi, però alla fine sono sereno, nel senso che vado a cercarmi i clienti con i denti mattina, mezzogiorno e sera, li trovo, porto a casa quello che mi serve per vivere, ma faccio il lavoro che mi piace, faccio molta fatica ma sono contento, non mi verrebbe mai per la testa l'idea di fare un concorso men che meno pubblico per entrare in qualsiasi posto dove devo prendere uno stipendio e non lavorare, tutto qua. Grazie anche a Luigi, alcuni dicono dai ragione un po' a tutti, no, io riconosco che un po' tutti ci danno un pezzo di realtà di cui tenere conto, il mio punto di vista è una richiesta a voi di rischiare di più su se stessi, questa è la mia opinione, io vorrei un paese in cui ci fosse meno posto pubblico e meno fiducia nel fatto che il posto pubblico è la garanzia, è una garanzia di inamovibilità. E io non credo che questo paese abbia bisogno di una mobilità, questo però non mi consente di giudicare dall'alto tutti coloro che non hanno un reddito in famiglia e ne sono alla disperata ricerca, questo è il mio punto di vista. Allora torniamo da Secondo Amalfitano e poi concluderemo con il direttore del Mattino. Secondo Amalfitano, ha capito che i nostri ascoltatori dicono sì sì vabbè sarà la novità, i sociologi, i numeri, però la realtà è che come diavolo fate a giudicarli? Io mi rendo conto che la non conoscenza dei fatti e delle procedure porta a questo estremismo, peraltro totalmente in sintonia con la lamentazione italica. La signora che è intervenuta prima non conosce assolutamente la procedura. Quella di oggi, quella di queste ore, non è altro che una prova preselettiva, perché una scrematura dai 112.000 è necessaria e obbligatoria, a meno che non vogliamo ipotizzare procedure selettive che durano anni per farle correttamente. Quindi noi abbiamo individuato un percorso preselettivo, il numero dei quiz, la difficoltà, anche le modalità operative sono state tutte studiate in modo tale da avere un percorso ad ostacoli che ci consente di avere alla fine di questo percorso ad ostacoli 7 volte il numero dei posti messi a concorso come idonei. Credo che 7 volte il numero dei posti consente di entrare nel merito del giudizio. Consente di entrare nel merito e ci entreremo. Dopodiché entreremo. Allora facciamo un patto, Amalfitano. Man mano che le prove vanno avanti, noi torneremo ad occuparcene. Perché secondo me la prendiamo dai ministro Brunetta sul serio. Vedremo se è la cosa migliore, perché così andiamo a fare le verifiche in itinere per dare a tutti i nostri ascoltatori la prova o meno certificata che siamo in presenza di una svolta vera. Ce lo auguriamo per la storia del mezzogiorno dell'Italia. Cusenza, dovessi scommettere, ma non su Amalfitano che è persona seria e lo so, ma sul fatto che Napoli sia in grado di vivere davvero una svolta di questo tipo, oltre all'auspicio, segni reali? Pochissimi. Molto francamente pochissimi, anche perché tu dicevi il problema del posto fisso, qui a Napoli, come anche un ascoltatore ci ha ricordato, è il problema del posto, quindi cioè, la verità qual è? Che il concorso è stato preso d'assalto come la diligenza per il fatto che è l'unica occasione che si è vista da qualche anno da queste parti, quindi il problema purtroppo è lì, è complesso, da una parte le uniche occasioni spesso arrivano dal cosiddetto posto pubblico, perché il privato è nelle difficoltà che sappiamo per le contingenze internazionali e per le complicazioni locali. Dall'altra, effettivamente, come dare torto a chi cerca di saltare, come ho detto, sulla zattera, l'unica che passa in queste contrade. Quindi il problema è complesso. Io segnali di positività in questo momento ne vedo assai pochi. Devo dire che secondo me il direttore del Mattino ha abbastanza ragione. Comunque, anche Santoro ha capito che il posto fisso era meglio nel suo caso non considerarlo più una garanzia ed è diventato un libero professionista. Certo, si porta a casa altri 2,8 milioni di euro dalla RAI, cioè del contribuente. Io ne sono felice per lui, potrà produrre meglio e guadagnare ancora di più nel libero mercato. Non tutti abbiamo le possibilità di Santoro, però continueremo a occuparci di questa storia del mega concorso per vedere se davvero sarà una svolta. Intanto, nella hit parade dei nostri interventi, sicuramente Daniele da Bologna è quello che ha col suo aspro richiamo alla realtà di molti che non vogliono rischiare preso più applausi in termini di SMS. Grazie ai nostri ospiti, grazie a regia Alessandro Chiappini e a Carmelo Lauricella, grazie a Alessandro Marco Tulli e a Guerra Guerrera. L'appuntamento è a domani, linea al Giornale Radio. Radio 24, la passione si sente.